Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici. Ultimi arrivi. Oggi vi propongo delle novità, per, soprattutto nel campo della letteratura da relax. Ci troveremo molti thriller e molti polizieschi. Allora cominciamo con gli italiani. Il primo libro che vi segnalo è quello di Francesco Recami, Gli scheletri nell'armadio, Sellerio, 222 pagine, 13 euro. Questa è la seconda prova dello scrittore affezionato alla casa di ringhiera che fa da palcoscenico e protagonista collettivo delle sue storie. Uno dei suoi abitanti, il pensionato Medeo Consonni, dovrà risolvere il caso avviato dal rinvenimento di tre scheletri in un vecchio casolare da un ex collega di lavoro. Questa è una storia milanese, un giallo italiano ricco di spunti e di piste che non mancherà di sorprendervi. Maurizio De Giovanni ci offre invece un nuovo personaggio, l'ispettore Lo Iacono, nel libro Il metodo del coccodrillo, è pubblicato da Mondadori, 250 pagine, 17 euro. Qui siamo a Napoli, dove vivacchia l'ispettore, che è stato trasferito dalla Sicilia per essere stato accusato da un pentito di collaborazione con la mafia. Insomma, non è un gran momento per l'ispettore, che non fa peraltro molto per aumentare la stima di cui in quel momento gode. Come testimonia, per esempio, questo dialogo al quale assiste impassibile fra un suo collega e una signora che di lui non vuole proprio sapere. Signor, e noi così non andiamo da nessuna parte, ci dobbiamo capire bene. Voi non dovete venire qua a farci perdere tempo, noi teniamo da fare. Allora, spiegatemi bene che è successo. La donna strinse le labbra, lanciando uno sguardo intralice all'altra scrivania. Commissà, abbassate la voce, sennò quello sente tutti i fatti miei. Giuffre allargò le braccia. Signora Bella, ve lo ripeto, io non sono commissario, sono un semplice sovrintendente che per sua disgrazia è stato messo qua a prendere le denunce. E quello non sta a sentire i fatti vostri. È l'ispettore Lo Iacono, che pure lui fa lo stesso mestiere mio, solo che, come vedete, è più fortunato di me, perché chissà come, da lui non ci va mai nessuno. L'uomo seduto all'altra scrivania non mostrò di aver sentito la tirata di Giuffre. Continuava a guardare lo schermo del computer, la mano sul mouse, ma sembrava perso dietro altri pensieri. La donna, una popolana di mezza età che stringeva tra le mani grassocce una borsetta, si disinteressò ostentatamente di lui. E che vi devo dire? Quella, la clientela, si rivolge sempre ai commessi di cui si fida di più. Ma che commessi e commessi, signor? Ma mi fate perdere la pazienza. E insomma, come vi permettete? Questo è un commissariato, un poco di rispetto. Clientela, commessi. E che stiamo, dal salumiere? O mi dite subito, in due minuti, quello che è successo, o vi faccio accompagnare fuori dalla guardia. Allora? Quando un killer misterioso comincia a colpire, l'ispettore sarà coinvolto nelle indagini dal procuratore che si occupa del caso, un caso intitolato al coccodrillo perché il killer dopo ogni omicidio piange, come documentano i fazzolettini abbandonati, sul luogo di ogni delitto. Uno scienziato prestato ai polizieschi che già conoscete, Danilo Mainardi, l'etologo ormai al terzo giallo che ha per protagonista un animale, in questo caso un bufalo, Le corna del Cesare. Pubblicato da Cairo, 222 pagine, 14 euro. Sarà una zoologa agnese a dover difendere il povero e impotente Cesare, il bufalo accusato di omicidio, dando una mano anche alla polizia insieme all'esperto, il professor Lavetti, che abbiamo già incontrato nelle precedenti avventure di Mainardi. Un altro italiano scrittore di gialli, anch'egli sperimentato e proveniente da esperienze professionali completamente diverse dalla scrittura, è Sergio Grea, che propone L'appalto con PM, 490 pagine, 18,50 euro. Come nel libro precedente che ci aveva portato in Africa, Grea offre qui il quadro di un intrigo di affari internazionali, in questo caso ambientati tra Russia e Uzbekistan. Entriamo così nella cronaca di uno dei peggiori delitti ambientali compiuti negli ultimi decenni, ossia la distruzione del lago di Aral, che viene così descritta nel libro. Ascolti e faccia attenzione. Dispiega sul tavolino una cartina. Al centro c'è un lago diviso in due tronconi e intorno nomi di paesi. Uzbekistan, Kazakistan, Turkmenistan, Tagikistan, Afghanistan, Kirghizistan. È quello che è rimasto del lago Aral, continua. Un tempo era il quarto lago del mondo, oggi è ridotto a poco più di due pozzanghere. Kroshenko ha sempre gesti bruschi. In quel plico c'è scritto perché è successo, con tutti i dettagli sulla pazza politica del cotone di Stalin e dei suoi successori. hanno imposto all'Uzbekistan, che allora faceva parte dell'URSS, una produzione intensiva che ha assorbito gran parte dell'acqua di quella terra. Hanno impoverito i due grandi fiumi del Pamir e ucciso l'Aral, e col lago la vita di quanti gli vivevano intorno. Città uzbeche e kazake, nate e prosperate sulle sponde del lago, oggi sono città morte. Anche qui entrano in scena protagonisti internazionali e ben presto l'affare si rivelerà assai più tenebroso del previsto. Un autentico investigatore invece è Gianni Simoni, che è stato giudice istruttore, il quale ha dato vita a un altro personaggio, anzi a una coppia, l'ex giudice Petri e il commissario Miceli, che ritroviamo in Pesca con la Mosca, pubblicato da Tea, 308 pagine, 12 euro. Questa è un'indagine difficile che parte da una ragazza rinvenuta dallo stesso protagonista in un fiume presso il quale egli si era recato a pescare. Ma la serie di omicidi dopo quello iniziale continuerà con varie vittime, alcune delle quali vestite con un abito talare, un particolare che talvolta ritorna anche presso qualcuno dei sospettati, e questa è un po' la chiave di questo libro. E più di recente, sempre Gianni Simoni pubblica un libro che ci porta a Milano con Piazza San Sepolcro, pubblicato da Tea, 234 pagine, 12 euro, in cui il protagonista è l'ispettore Lucchesi, un altro investigatore sfortunato ma assai perspicace nonostante il pessimo carattere che non gli impedirà di risolvere il caso dell'omicidio sul quale indaga. Mentre un altro ex manager, in questo caso bancario, è Carlo Martigli, che vuole ripetere i successi precedenti con il libro L'eretico, pubblicato da Longanesi, 496 pagine, 17,60 euro. Questo romanzo storico, che parte da Pico della Mirandola, nel quale l'Italia rinascimentale e gli attacchi di Savonarola si intrecciano con il patrimonio inestimabile che un monaco indiano porterà a Roma e che rimetterà in discussione i fondamenti stessi del cattolicesimo. Una storia autentica invece è quella che ci propone Barbara Frale, che si misura adesso con La narrativa, la lingua segreta degli dei, è pubblicato da Mondadori, 366 pagine, 12,90 euro. Anche qui abbiamo un documento misterioso che fa gola a un archeologo italiano degli anni 40, ma che scoprirà di essere al centro di una serie di appetiti e di complotti. E qua c'è un libro che mescola l'antico col moderno, riportandoci agli aspetti oscuri della storia del Novecento, dei rapporti tra Vaticano e grandi potenze, delle vicende degli ebrei sotto il fascismo e della protezione che molti di essi ricevettero dal Vaticano. Una vicenda che parte da una missione che il futuro Pio XII, ancora segretario di Stato e grande appassionato d'archeologia, assegna al protagonista, il giovane ingegnere Alessandro Borghese. Un giallo palermitano è quello di Gianmauro Costa, il creatore di Enzo Baiamonte, che torna con Festa di Piazza, pubblicato da Sellerio, 302 pagine, 14 euro. Siamo nel pieno di una ricorrenza religiosa che coinvolgerà direttamente il protagonista, dandogli modo di entrare in un giro dal quale trarrà elementi curiosi se non misteriosi che contribuiscono a fare il clima di un giallo senza delitto che ci porta nel cuore di una Palermo misteriosa e sorprendente. Ed ecco un ritratto non certo eleografico di questa Palermo anticipato nelle righe che vi propongo. Tagliò per il mercatino delle pulci, dove le pulci erano diventate ormai più rare del virus della poliomielite, e aggirò la cattedrale, allungando di qualche centinaio di metri il tragitto per riordinare le idee e i capelli, come suo costume prima dell'incontro con uno sconosciuto. Anche perché gli piaceva attraversare i vicoli che dai mercati popolari confluivano nell'inaspettato spettacolo della Piazza dei Sett'Angeli, il monumentale fianco della cattedrale. Nello spazio centrale, più polvere che verde, resisteva con tenacia qualcuna delle vetuste palme che adornavano il centro storico. Piante che erano riuscite a sopravvivere agli assalti del punteruolo rosso, un insettaccio che spargeva per le strade bozzoli grandi quanto pigne e agli ettolitri di ammoniaca naturale sparsi a profusione per consuetudine tramandata di generazione in generazione. Nella stradina stretta che portava su Corso Vittorio, l'odore di detersivo usciva dai piccoli portoni di legno aperti sulle scale. Giungeva qualche grido di donna che poteva essere indifferentemente di piacere o di rabbia e il suono eccessivo della musica sparato dagli hi-fi. Apparecchi tutti di fabbricazione rigorosamente cinese, votati a liquefarsi in un pasticcio di plastica e diavolerie cancerogene. Prima dell'inevitabile auto da fè erogavano, per la delizia di residenti e pellegrini, canzoni melodiche straniere a tutta ugola. Napoletane, quindi straniere, diceva Baiamonte, a cui non era mai andata giù la venerazione borbonica dei quartieri popolari di Palermo per la musica partenopea. Un protagonista autentico e operativo della sicurezza di Palermo è un autore anonimo di cui abbiamo già parlato in questa trasmissione, IMD, che è attualmente sovrintendente della Polizia di Stato, dove lavora presso la sezione Canturandi della squadra mobile di Palermo. L'ultimo libro che ha pubblicato analizza la diffusione della mafia cinese tra realtà e leggenda, come recita il sottotitolo del libro Dragoni e Lupare, pubblicato da Dario Flaccovio, 250 pagine, 13 euro. Nonostante la forza e radicamento della mafia nell'isola, la malavita cinese sta prendendo piede anche in Sicilia. E allora l'autore, incuriosito fin dagli studi universitari, conduce un'indagine aliena dal cadere nelle tentazioni del folklore malavitoso e attento invece ad analizzare il fenomeno della criminalità a partire dai dati sull'immigrazione cinese anche in Sicilia. E l'autore appunto cerca di fare giustizia di stereotipi, leggende e dicerie come quella nota in tutta Italia secondo la quale i cinesi in Italia non morirebbero mai. Da Palermo a Firenze con un investigatore autentico, Michele Giuttari, che è stato capo della squadra mobile di Firenze, autore dei Sogni cattivi di Firenze, pubblicato da Rizzoli, 430 pagine, 18 euro. Qui i delitti squarciano il velo su una città dagli aspetti inconfessabili, nei quali si muove una loggia massonica che darà filo da torcere al protagonista, il commissario Ferrara. E un'altra Firenze tenebrosa troviamo nel libro di Paolo Piani, Un povero diavolo, pubblicato da Mauro Pagliai, 308 pagine, 18 euro. Anche qui un serial killer su cui indaga una strana coppia di ex compagni di scuola, un investigatore privato di scarsa fortuna, Simon, e il giallista Paolo. L'autore in particolare è sceneggiatore di fumetti e non mancano nel suo libro riferimenti a molti supereroi di quel mondo. Torniamo invece a Milano con Biagio Goldstein-Bolokhan, che esordisce con Il lato oscuro della luna, è pubblicato da Cairo, 318 pagine, 15 euro. Qui protagonista è un singolare commissario, Ofelio Guerrini, una sorta di Nero Wolf, non fosse altro che per la stazza, pesa quasi 120 kg. Testimone e protagonista dei travagli della Milano degli anni 70, una Milano che a lui piace proprio perché città, come la definisce, introversa, scorbutica, malinconica e possente, una Milano senza fronzoli, diretta, come era lui, scrive l'autore. Guerrini è antifascista per buon gusto, è stato comunista da giovane e proprio lo scontro politico sarà al centro dell'inchiesta che il commissario affronta sul delitto di un uomo dalla convinta militanza di sinistra. E a Milano restiamo con un giallo di Veronica Crippa e Roberto Caputo, intitolato Rosa Nera, pubblicato da Robin, 144 pagine, 9 euro. Qui abbiamo il paradosso di una doppia Milano, quella raffinata e lussuosa, contrapposta a una grigia e sotterranea, nella quale si immalinconisce il protagonista, che verrà ben presto risucchiato in un fatto di cronaca che ricorderete, quello delle intercettazioni Telecom, attorno al quale ruotano i quattro omicidi che dovrà risolvere. Un criminologo appassionato della scrittura e della sceneggiatura è Donato Carrisi, autore di La donna dei fiori di carta, pubblicato da Rizzoli, 170 pagine, 11,60 euro. Questo è un noir insolito e appassionante, un duello psicologico che parte dall'affondamento del Titanic e dalla Prima Guerra Mondiale. Un ruolo importante nel libro lo svolge la sigaretta. Infatti Carrisi precisa solennemente che il fumo fa malissimo e che anche il sottoscritto, cioè l'autore, lui, ha smesso da tempo di intossicarsi con la nicotina. Però rivendica lo stesso, scrive, il diritto di raccontare personaggi tabagisti convinti, imperterriti avvelenatori di se stessi che se ne infischiano della morte oppure di sembrare politicamente corretti, perché ciò che nuoce gravemente alla salute dei benpensanti è soprattutto la libertà degli altri. E proprio il fumo, intorno al fumo ruota una delle tre domande che fanno questo libro, chi fosse appunto l'uomo misterioso che fumava una sigaretta mentre il Titanic affondava. Un investigatore malinconico e tormentato, capace di dare una svolta alla propria vita per combattere il male, è l'ispettore Remo Jacobi, personaggio creato da Massimo Gardella, musicista e scrittore, nel libro Il male quotidiano, pubblicato da Guand, 290 pagine, 17,50 euro. Si parte dalle campagne intorno al Ticino, dove avviene un orribile ritrovamento in bocca a un mostruoso pesce siluro che dà la scossa all'ispettore, fino ad allora rassegnato all'avanzare di una patina di cattiveria su tutte le cose. E nell'intreccio entrerà ben presto vicende lontane nello spazio, molto lontane dall'Italia, con un pugno di mercenari pronti a ogni violenza. Un romanzo storico invece è quello di Mauro Marcialis, Il sigillo dei Borgia, pubblicato da Rizzoli, 414 pagine, 18 euro. I Borgia costituiscono una famiglia tenebrosa, da sempre al centro della curiosità, di cui qui leggiamo le prodezze in una ricostruzione storica appropriata che ruota ovviamente attorno alla figura del capostipite o del personaggio più famoso, cioè il Papa Alessandro Alessandro VI, il Papa Borgia, e dei suoi figli, nonché delle sue donne. Sentiamo qui come, peraltro, Alessandro VI fosse un abile manipolatore della comunicazione a suo favore. Le feste si susseguono e i cortei capeggiati dal Papa seguono itinerari diversi affinché ogni zona della città possa essere battuta dai carri vaticani. Tutti devono poter udire le prediche di Alessandro VI e ammirarne la sfarzosa autorità. Ogni colle di Roma, almeno una volta, deve poter accogliere il tramonto con la croce di Cristo e il toro dei Borgia. I discorsi di Alessandro VI sono curatissimi e suggestivi. La sua voce è potentissima. Il Papa vuole essere sulla bocca di tutti e sollecita la divulgazione di una satira non troppo feroce nei suoi confronti per apparire così liberale e benevolo nei confronti dei detrattori. Funziona. La sua popolarità cresce e molti dei suoi nemici, pur comprendendo le sue argute dinamiche, sono costretti ad ammettere la propria impotenza. Soltanto a Firenze si erge una voce altrettanto carismatica. È quella di Girolamo Savonarola, che non ha paura di farsi nemici i signorotti fiorentini in nome dei disperati e la Chiesa di Roma in nome di Dio. E a questo punto le informazioni sul traffico. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba, proseguiamo allora con i nostri libri di relax e veniamo agli stranieri con una scrittrice spagnola, Susanna Fortes, autrice di un thriller che ci conduce al centro di un percorso che magari qualcuno di voi sta percorrendo o ha percorso in queste settimane, cioè il Cammino di Compostela. E il libro si intitola appunto Il Cammino del Penitente, pubblicato da Nord, 16,50 euro, tradotto da Patrizia Spinato. Proprio nella cattedrale di Santiago ha luogo l'omicidio che dà il via alla vicenda. Vittima è una studentessa d'archeologia, militante ambientalista, la cui vicenda si intreccia con l'indagine di una giornalista su un prezioso manoscritto trafugato all'Università di Santiago. Apro una parentesi con un libro di viaggio ambientato proprio lungo il Cammino di Compostela, e cioè 1.800.000 passi di Elisabetta Orlandi, Paoline, 348 pagine, 19 euro. Questo è un cammino insolito perché è realizzato col figlio di 8 anni, una compagnia che naturalmente rende l'impresa più complicata ma anche più esaltante, come dimostrano le righe che adesso vi propongo. Siamo nel cammino da quasi 2 settimane. 20 giorni fa eravamo a casa in Italia, un mese fa iniziavo a preparare lo zaino. Ora abitiamo un altro pianeta, lontano anni luce dalla nostra realtà di prima. Non ho idea di come si concluderà tutto questo, non solo sul piano pratico, quando e se arriveremo a Santiago, per esempio, ma soprattutto dentro di me, di noi. I giorni passano e io mi sento sempre più lontana dal punto di partenza. Non per la manciata di chilometri che abbiamo percorso, ma per lo sguardo che mi sento fiorire negli occhi, per il peso diverso che noto nel mio cuore, per la crescente leggerezza dei passi che misurano il nostro andare senza fretta. Riprendiamo con i nostri libri d'azione e vi propongo un'altra scrittrice spagnola di grande successo, Rosa Montero, di cui Salani pubblica Lacrime nella pioggia, tradotto da Claudia Marseguerra, 480 pagine, 18 euro. Il libro è ambientato tra quasi 100 anni, nel 2109. Allora la Terra formerà ormai gli Stati Uniti della Terra e accanto agli uomini vivranno molti replicanti che cadranno nel libro vittima di una misteriosa moria, e sarà proprio una detective replicante, Bruna Husky, a indagare sul caso. Insomma, un libro un po' thriller, un po' fantascienza, con un pizzico di riflessioni sul tema della libertà individuale. Un medico donna convertitasi alla scrittura è Tess Gerritsen, che pubblica La Fenice Rossa, 334 pagine, 17,60 euro, tradotto per Longanesi da Anna Maria Biavasco e Valentina Guani. Siamo nella Chinatown di Boston, dove si trova l'edificio sul tetto del quale viene ritrovata la vittima che dà avvio al libro. L'edificio è quello nel quale si era consumata una strage diversi anni prima e su questa pista comincerà a lavorare l'ispettore Rizzoli, o forse Raizzoli, essendo statunitense. E restiamo negli Stati Uniti, a New York, che ci viene descritta nei suoi aspetti più torbidi e inquietanti nel libro di Jeffrey Deaver, l'autore del Collezionista di ossa, La Consulente, pubblicato da Rizzoli, 468 pagine, 19,50 euro, ed è tradotto da Valentina Ricci. Questa è la New York degli studi professionali e la protagonista è una praticante in un prestigioso ufficio di avvocati che verrà chiamata da uno dei più giovani professionisti in carriera dello studio stesso a indagare sulla scomparsa di un documento fondamentale per la sua carriera del dell'avvocato. E qui troviamo una bella descrizione dell'ambiente anche di New York e degli studi professionali, oltre che una trama che fila, come dimostrano queste righe. Erano quasi le 8 di sera, ma l'atto finale di una fusione aziendale con relative firme, cominciato alle 2 del pomeriggio, non era ancora terminato a causa di qualche intoppo, forse per un ritardo nelle approvazioni da parte dei giapponesi. Gli avvocati e i praticanti della Hubbard, White & Willis, assegnati al caso, correvano tra le sale in cui doveva avvenire la deliberazione, stringendosi al petto fasci di documenti, simili a formiche che rubano briciole di pane a un picnic. Le loro espressioni erano molto più felici di quelle delle formiche, però, forse perché queste ultime non guadagnano $4,000 l'ora per trascinarsi addosso briciole di cibo. I clienti, invece, quelli che avrebbero pagato le parcelle, stavano mordendo il freno. Testimonianza di un genere molto fortunato, cioè i thriller d'ambientazione svedese, quello di uno svedese d'adozione, Thomas Kauger, Le gambe dell'assassino, Ponte alle Grazie, 286 pagine, 14 euro, tradotto da Alessandro Storti. Qui indaga una donna, l'ispettrice Wiik, che conduce caparbiamente una personale inchiesta che si contrappone alla versione ufficiale di un delitto che colpisce due vittime, una delle quali riuscirà a riprendere, prima di morire, appunto le gambe dell'omicida. Una delle vittime è un palestinese, dunque l'indagine si indirizza rapidamente verso l'ambiente terroristico, ma l'ispettrice avrà ragione con la sua ostinazione, contribuendo a confermare della Svezia quel quadro emerso in tanti libri assai meno idilliaco di quello tradizionale. Ingegnere e manager di formazione, autore del fortunato La cattedrale del mare, è Jorge Molist, autore di Promettimi che sarai libero, e pubblicato da Longanesi, 378 pagine, 14,90 euro, tradotto da Roberto Bovaia. Questo romanzo storico, ambientato a Barcellona della fine del 400, di cui è protagonista Joan Serra, un protagonista che ci resterà sicuramente simpatico per la professione che abbraccerà, quello di amanuense e rilegatore, un amanuense sui generis perché è obbligato a imparare a copiare, ma gli viene interdetto di imparare a leggere come sarebbe suo grande desiderio. E da qua partono molte avventure che confermano la verve dell'autore e la capacità di ricostruire lontani periodi storici. Cambiamo completamente genere per passare a dei libri anch'essi adatti particolarmente alle letture estive, cioè la storia e le biografie. E vi segnalo innanzitutto di Mino Milani, il grande scrittore di avventure, appassionato di Garibaldi in particolare, il libro Dall'impero alla Repubblica, 1470 anni di storia italiana, pubblicato da Mursia, 454 pagine, 20 euro. Il periodo abbracciato va dal 476 d.C., la caduta dell'impero, al 1946, la nascita della Repubblica, e viene presentato in una sintesi molto godibile anche per i temi trasversali che sottolinea e ripropone. E se gli ultimi capitoli ci ripropongono naturalmente vicende più note anche alla luce delle recenti celebrazioni del 150enario dell'Unità d'Italia, i primi, dedicati all'Italia dell'età antica, riaprono squarci su figure ed episodi magari meno noti ma decisivi per la storia del nostro paese. Sentite per esempio le righe che adesso vi propongo. Dopo l'invasione longobarda, i domini bizantini d'Italia, a parte Calabria, Puglia e Sicilia, sono ridotti a territori sparsi qua e là sulla costa e non collegati tra loro. Assai importante tra questi il tratto di costa campana che va da Gaeta a Salerno e che fa capo a Napoli, dipendente dal tema di Sicilia. Pur professando, al pari di Venezia, la propria lealtà a Costantinopoli, l'isolata Napoli comincia a condurre una politica autonoma, imitata tosto da Gaeta e da Amalfi. Questa, che già nell'812 appare del tutto indipendente, è la città che maggiormente incrementa il traffico con l'Oriente. Sicuramente nel X secolo gli Amalfitani avevano una base commerciale a Madia, fondaci a Palermo, a Messina, probabilmente in Spagna, come più tardi in Siria. Amalfitano è il quartiere italiano che prima d'ogni altro sorge a Costantinopoli. Ad Amalfi si costituisce il primo modello di codice mercantile marinaro, quelle tavole che dalla città prendono il nome. I veri rivali di Amalfi sono i pisani e i genovesi, non gli arabi, per cui essa rimane estranea alle crociate. Già nel 1073 si è però chiusa la sua storia di repubblica indipendente. Come le altre città costiere, è stata conquistata dai normanni. E a questo punto... Il confettino. Per chi è in campeggio o ha intenzione di andarci, segnalo il libro di Ellie Penny, Disavventure al campeggio, di Ruth McNally Bershow, tradotto da Giovanna Scocchera, 186 pagine, 12,50 euro per Castoro. E il diario di vacanze è più o meno avventuroso, ricco di illustrazioni della stessa autrice, e una via di mezzo tra il fumetto e il libro tradizionale, completato con pagine utili in questo periodo, perché ci insegnano a cogliere col disegno gli aspetti più insoliti dei giorni di vacanza e a tenere un diario. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Pietro Lacorti, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica, buon Ferragosto, arrivederci alla settimana prossima.